Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La revisione della spesa, la spending review, è stata un parziale fallimento, lo dice la Corte dei Conti, che avverte sulla flessibilità, ci sono spazi di manovra esauriti e cresce l'incertezza. E oggi il Consiglio europeo si discute evidentemente anche di temi economici, ma dominano la scena la Brexit, ossia l'ipotesi di uscita della Gran Bretagna dall'Unione, e i migranti. Intanto l'Italia si prepara a un forte aumento degli sbarchi, ci vogliono 50.000 posti in più, dice il Viminale, preoccupazione dalle regioni e dai comuni. Una nuova inchiesta per corruzione, sono scattate perquisizioni a Roma per funzionari del comune, imprenditori e professionisti. Intanto arriva il dossier sui conti della capitale, il buco di bilancio, il debito è a 13 miliardi e mezzo. Un nuovo attentato in Turchia, altri 7 militari morti, Ankara accusa i curdi per l'autobomba di ieri, ma loro replicano, noi non c'entriamo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, oppure il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. Avremo spazio in questa puntata anche per parlare di Meridiana, perché è in corso l'incontro al Ministero per arrivare all'accordo con Qatar Airways. Al momento si prevedono 900 esuberi come base di partenza per la trattativa e la creazione di una nuova compagnia. Stiamo cercando di metterci in contatto con i sindacati e vedremo di capire se hanno qualcosa in più da dirci. Tra poco andremo a parlare anche dei nostri conti pubblici, dunque di quello che dice la Corte dei Conti nella relazione di apertura dell'anno giudiziario, ma iniziamo dal Consiglio europeo che si apre oggi, con al centro molte questioni importanti che riguardano l'Italia e tutto il vecchio continente. Si discuterà della cosiddetta Brexit, ossia dell'ipotesi di uscita della Gran Bretagna dall'Unione, e del documento preparato da Bruxelles per venire incontro a Londra. Ma si parlerà molto di migranti e ancora una volta delle strategie da adottare, soprattutto per l'accoglienza dei profughi. Dunque parliamo di questo. Primo piatto la Brexit, il referendum che potrebbe segnare l'addio degli inglesi all'Unione Europea. Secondo piatto l'immigrazione, le quote da ricollocare, i rimpatri, l'asilo europeo. Questa seconda portata è quella che interessa di più al nostro paese. Verrà servita per cena al Consiglio Europeo che inizierà oggi a Bruxelles. Per il futuro della questione migratoria ci sono rischi che scelte unilaterali possano far precipitare la crisi, portandoci a cancellare una delle principali conquiste dell'Europa, ossia Schengen, così ha detto oggi il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, ed è chiaro il riferimento all'Austria, che ha deciso di chiudere entro aprile le frontiere con l'Italia. Una decisione che, secondo il Viminale, contribuirà, insieme al clima più mite, a rendere più probabile il fatto che venga utilizzata la rotta del Mediterraneo per arrivare in Europa. Quindi il Viminale prevede nuovi arrivi e chiede ai prefetti un nuovo sforzo, 50.000 posti in più, da attivare nel 2016 sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il Consiglio, è ormai certo che la discussione sul superamento di Dublino verrà rinviata al vertice di marzo. All'Italia non resterà che puntare sui rimpatri. Roma chiede che vengano gestiti direttamente dall'Europa e non dai singoli stati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono altri temi che sono all'interno ovviamente del dibattito europeo e sono quelli posti dall'Italia e che competono alla flessibilità di bilancio, che riguardano la flessibilità di bilancio. Anche su questi elementi si è soffermata oggi la Corte dei Conti all'apertura dell'anno giudiziario, il servizio. Bilancio pubblico sotto la lente all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, uno snodo importante in vista del documento di programmazione economica e finanziaria in arrivo a metà aprile. Il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, avverte che la spending review priorità anche per i prossimi anni è un parziale insuccesso e che sono stati tagliati o ridotti i servizi alla collettività. La Corte è dell'avviso che il parziale insuccesso o comunque le difficoltà incontrate dagli interventi successivi di revisione della spesa siano anche imputabili ad una non ottimale costruzione di basi conoscitive sui contenuti, sui meccanismi regolatori, sui vincoli che caratterizzano le diverse categorie di spesa oggetto dei propositi di taglio. Ma Squitieri sostiene che comunque i margini di flessibilità in sede europea sono stati utilizzati ed è stato rispettato il vincolo di bilancio europeo, anche se senza investimenti il Paese perde competitività. I margini di flessibilità acquisiti in sede europea sono interamente utilizzati nella manovra di finanza pubblica per il 2016. In tal modo si mantiene il profilo discendente del deficit dei conti pubblici, che tuttavia assume una cadenza più rallentata, restando comunque al di sotto della soglia del 3%. Il potenziamento della ripresa economica, che i pur contraddittori indicatori congiunturali sembrano segnalare, è affidato a misure dirette ad incrementare il reddito disponibile delle famiglie ed a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese. Una particolare attenzione è poi riservata agli investimenti pubblici in infrastrutture, per i quali l'intento dichiarato è di invertire una tendenza ormai pluriennale verso un continuo declino. L'Italia è uscita dalla recessione, dice, ma cresce l'incertezza. È fondamentale fornire impulso al lavoro. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di incertezza, i mercati sono stati dominati dall'incertezza per alcuni giorni, adesso sono tre giorni che le borse vanno bene, anche oggi i segnali sono positivi, più 1,11% per il FTSE MIB in questo momento, più 1,15% per il FTSE All-Share, Parigi che guadagna lo 0,81%, Francoforte 1,5%, tutto questo sulla scorta anche dell'andamento del prezzo del greggio che è in ripresa, il WTI, quello quotato a New York con consegna a marzo, guadagna il 2,5% a 31,4 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, il guadagno del 2,17 a 35,2 dollari al barile. Anche di questi elementi e delle tensioni internazionali tiene conto l'OCSE nell'aggiornamento delle sue previsioni, che è un aggiornamento negativo tanto per quanto riguarda l'Italia quanto per la Germania. L'OCSE ha tagliato le stime del PIL italiano all'1% nel 2016, ovvero 0,4 punti percentuali di crescita in meno rispetto alle previsioni di febbraio. A sorpresa, l'organizzazione economica ha ridotto le stime anche della locomotiva tedesca, meno 0,5%, e Stati Uniti, in frenata la Cina e Brasile in recessione secca. Insomma, la crescita globale è in calo, la borsa è volatile, i mercati emergenti sono vulnerabili ai movimenti valutari e al forte indebitamento in dollari del settore privato. La politica monetaria da sola, come ha appena ricordato al Parlamento europeo il presidente della BCE Mario Draghi, non basta più. Bisogna rilanciare gli investimenti pubblici e tagliare le tasse per far ripartire la crescita sostenibile. Ora che anche Berlino frena, il problema diventerà finalmente europeo e il piano Juncker verrà tolto dalla naftalina. Vittorio D'Arolde, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una decina di perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso a Roma nei confronti di funzionari, professionisti e imprenditori del settore immobiliare della capitale. A quanto si apprende, le perquisizioni sono state disposte dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione. Intanto, a proposito di Roma, sul tavolo del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan arriva il rapporto sul debito di Roma e i numeri sono letteralmente impressionanti. 13,6 miliardi di euro, a tanto ammonta la voragine nei conti che grava sull'amministrazione capitolina e su tutti i romani. Si tratta per lo più di debiti accumulati negli anni passati e finiti dal 2008 nella gestione commissariale, una sorta di bad company del comune istituita dal governo Berlusconi durante l'amministrazione Alemanno. La quantificazione del buco è contenuta nella relazione inviata al Ministero dell'Economia dalla nuova commissaria del debito di Roma Capitale, Silvia Scozzese, ex assessore al bilancio con il sindaco Marino. Questa voragine nei conti pesa in modo diretto sulle tasche dei romani, costretti a pagare l'addizionale IRPEF più alta del paese, il 9 per mille, il cui gettito per metà è utilizzato proprio per ripianare il debito. Difficile quindi, se non impossibile per gli abitanti della capitale, sperare in una riduzione delle tasse locali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Abbiamo parlato poco fa della nuova inchiesta per corruzione che arriva a Roma, vedremo quale sarà l'evoluzione, nel frattempo abbiamo nuovi dettagli e interrogatori questa mattina per quanto riguarda l'inchiesta che ha travolto il Consiglio regionale della Lombardia, soprattutto nella persona di Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità. Raffaella Calandra, ciao, buongiorno. Sì Simone, l'ennesima inchiesta appunto, come già dicevamo ieri, che ha travolto sulla sanità la regione Lombardia. Oggi tra Milano e Roma al via gli interrogatori di garanzia per i 9 indagati arrestati dei 21 raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare di martedì. Un'oretta fa, a partire da mezzogiorno, era programmato davanti al GIP Emanuela Corbetta quello del protagonista, ossia, come ricordavi, il leghista Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità della Regione. Poi in calendario anche quello del suo braccio destro, Mario Longo, colui che, intercettato, ammetteva che la campagna elettorale di Fabio, cioè Fabio Rizzi, era pagata al 100%, diceva, dall'imprenditrice Maria Paola Canegrati, la Mandrake e dell'ortodonzia lombarda, che sarà sentita invece a Milano. E la sua, quella di Rizzi, potrebbe non essere l'unica campagna elettorale finanziata in parte o in toto da Canegrati, che avrebbe bonificato 10.000 euro pure alla fondazione Ricostruiamo il Paese, sostenitrice invece di Flavio Tosi, ex leghista. Sarebbe questo quel finanziamento andato verso il Veneto di cui parlavamo già ieri, sempre qui in effetto giorno. E dai soldi partiranno proprio gli interrogatori, dai soldi trovati nelle perquisizioni, i 15.000 da bigliettoni da 500 euro di cui Rizzi e compagna parlavano nell'intercettazione, quelli nascosti pure nel congelatore, ai soldi da incassare ancora in futuro, annotati invece in un pizzino con un accordo tra la stessa Canegrati e Mario Longo. Davanti allora a questa ennesima inchiesta sulla sanità in Lombardia, dopo tra l'altro quella che solo pochi mesi fa aveva coinvolto un altro ex assessore, Mario Mantovani, Forza Italia, il governatore Roberto Maroni decide di rivolgersi direttamente all'autority anticorruzione. Nel pomeriggio infatti a Roma incontra Raffaele Cantone e l'ipotesi che gira è quella di istituire una sorta di autority regionale per controllare da ora in poi ogni decisione, ogni gara d'appalto, ogni acquisto di materiale. Insomma, un gesto concreto che possa essere anche una risposta politica alla mozione di sfiducia che è stata mossa dalle opposizioni contro il presidente della Lombardia. Simona. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Anche oggi si parlava di Raffaele Cantone, tra l'altro il presidente dell'ANAC, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario proprio della Corte dei Conti, ha parlato dei decreti per avviare gli indennizzi ai risparmiatori delle quattro banche che sono state coinvolte dal decreto cosiddetto salva banche di novembre. Il testo è concluso, ha detto va verificato, ma credo che sia addirittura d'arrivo. Ci sono nodi politici più che tecnici che devono essere ancora sciolti dal governo. Queste appunto le parole di Cantone. Passiamo alla politica vera e propria, che ci porta oggi nel campo del centrodestra, dove il tema restano le candidature, soprattutto quella di Roma, e anche delle dichiarazioni di Salvini su una manifestazione per il 25 aprile. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Parole che sicuramente faranno discutere, quelle di Matteo Salvini, il quale innanzitutto annuncia una marcia per il 25 aprile, una marcia per celebrare non il giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ma la liberazione dell'Italia, dice Salvini, da Matteo Renzi. Siamo in un regime, spiega il leader della Lega, e quando occupi militarmente scuole, tribunali, TV e banche, la gente in genere fa le rivoluzioni. Sappia, il signor Renzi avverte il numero uno del Carroccio che da oggi è battaglia su tutto il fronte. Io però sono pacifico, preferisco una rivoluzione di piazza dove possano confluire tutti gli italiani che non vogliono vivere da schiavi, precari e insicuri. Insomma, una vera e propria sfida al premier, ma Salvini lancia una sfida a tutto campo. Oggi interviene anche sulle comunali a Roma, frenando sul nome di Bertolaso proposto dal centrodestra come candidato per il Campidoglio, perché, dice il leader della Lega, troppo morbido sui rom. La partita dunque per Salvini è ancora aperta, ascolterò i romani e deciderò, dichiarazioni che hanno fatto subito infuriare la leader di Fratelli d'Italia Meloni, che diserta l'incontro previsto proprio in questi minuti a Palazzo Grazioli con Berlusconi e Salvini per definire la questione Bertolaso. Salvini chiarisca su Bertolaso, dice Meloni, le sue dichiarazioni minano la credibilità della coalizione. Da Roma è tutto. E grazie Alessandra Schepisi anche a te per questo aggiornamento. Andiamo all'estero, ci spostiamo in Turchia, dove questa mattina c'è stato un nuovo attentato, mentre sarebbe stato identificato l'autore della strage di ieri nella capitale. Sarebbe un cittadino curdo siriano l'attentatore che ieri si è fatto esplodere ad Ankara contro un convoglio militare, uccidendo decine di persone e ferendone oltre 60. Salih Necjar, 24enne, sarebbe entrato in Turchia a luglio come rifugiato e farebbe parte dello YPG, braccio armato del PYD, partito siriano che Ankara considera formazione gemella del PKK e dunque terrorista. L'auto utilizzata per l'attentato, una Volkswagen, era stata affittata 2 mesi prima nella provincia di Izmir, ma non era mai stata restituita. Si trovava ad Ankara, come mostrano le telecamere di sorveglianza, almeno dall'11 febbraio. L'uomo non avrebbe agito da solo, e se il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e il PYD per ora smentiscono un coinvolgimento nella vicenda, per il governo sono loro i responsabili. L'attacco è stato compiuto dal PKK insieme ad una persona entrata in Turchia dalla Siria, ha detto il premier Ahmed Davutoğlu, che poi ha puntato ancora più in alto definendo lo YPG uno strumento nelle mani di Assad e il regime siriano direttamente responsabile. Abbiamo il diritto, ha concluso, di prendere ogni tipo di misura contro di loro. Nel frattempo un altro attacco ha colpito colpito un convoglio militare nella provincia sudorientale di Diyarbakir, uccidendo almeno 7 soldati, ma questo tipo di attacchi in questa parte del paese sono ormai quasi quotidiani. 9 persone sono state intanto arrestate nell'ambito delle indagini per l'attacco di ieri, mentre l'aviazione turca ha bombardato le basi del PKK in Iraq, vicino al confine siriano, uccidendo pare una 60 di militanti. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Siamo alla cronaca italiana. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno fermato nella notte, durante un posto di blocco in provincia della capitale, il secondo detenuto romeno evaso la settimana scorsa dal carcere di Rebibbia. Ieri sera si era invece costituito il suo connazionale. L'uomo era a bordo di un furgone nella zona di Tivoli Terme ed ha tentato una breve fuga a piedi. È durata 4 giorni. Dunque la fuga, erano evasi il giorno di San Valentino, dopo essere riusciti, lo ricorderete, lo abbiamo raccontato, a tagliare le sbarre di un magazzino e poi scavalcare l'alto muro di cinta del carcere di Rebibbia. La cronaca italiana ci porta a parlare anche di un altro caso, la morte di un avvocato a La Spezia, per la quale oggi è stata interrogata la sorella. Da una settimana agli arresti domiciliari, Marzia Corini non risponde al GIP che l'accusa di aver ucciso con una iniezione di sedativi il fratello Marco, avvocato di fama e gravemente malato, morto a settembre nella sua villa di Amelia. E attraverso uno dei suoi legali, l'avvocato Anna Francini ripete la sua innocenza. Chiaramente è un'accusa pesante che scuoterebbe forse chiunque, no? Specialmente se uno non ha niente di cui, diciamo, rimproverarsi e ritiene di essere, anzi, non ritiene. È assolutamente innocente rispetto ai fatti. Stamane i legali hanno chiesto tempo per leggere gli atti per articolare una strategia difensiva. Abbiamo ritenuto come difensori che fosse opportuno che la dottoressa Corini rispondesse all'esito di una lettura anche da parte sua. Per la procura della Spezia, Marzia Corini, medico anestesista, avrebbe iniettato la dose letale al fratello non prima di averlo indotto a scrivere un secondo testamento, a lei più favorevole, dopo che nel primo, redatto nelle settimane precedenti, una parte cospicua dei beni era stata destinata alla giovane compagna di Marco Corini. Nella vicenda risulta indagata anche un'avvocatessa della Spezia, inserita tra i beneficiari del secondo testamento, nei confronti della quale la procura ha disposto il sequestro preventivo di 200.000 euro. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, parliamo di calcio, lo facciamo con il nostro Carlo Genta. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. E viaggiamo tra la partita di Champions League di ieri, quella della Roma, e poi l'Europa League, no? Sì, Europa League che propone stasera le nostre tre. Allora, il risultato principale è che siamo impegnati tutte le sere, perché le due della Champions League affronteranno e stanno affrontando, la Roma ha già iniziato a farlo, i loro impegni difficilissimi, e le tre che erano in Europa League sono passate tutte quante e stasera cominciano il loro ballo di inizio primavera. Per quanto riguarda la Roma è stata sfortunata, l'avversario era quasi impossibile, lo sapevamo tutti, il Real Madrid, ma è stata una buona Roma, quella che ieri sera ha perso 2-0 in maniera anche un po' scarognata, perché Cristiano Ronaldo ha trovato il gol del fuori classe dopo 12 minuti del secondo tempo e Gesé ha chiuso il conto. Ma è stata una Roma piena di orgoglio, di geometrie, di impegno, di voglia, di corsa, e quindi è uscita tra gli applausi di uno stadio olimpico finalmente all'altezza della situazione dopo tante settimane, tanti mesi di vuoto, e quindi una sconfitta che io credo potrà avere... Certamente non è ora in discussione, sarebbe ridicolo mettere in discussione il passaggio del turno del Real Madrid dopo questo 0-2 dell'Olimpico, però potrebbe dare fiducia alla Roma in campionato. E poi le altre le vediamo questa sera, il Napoli con il Villarreal, la Fiorentina che ha un impegno difficilissimo con il Tottenham, secondo nel campionato inglese e alla ricerca, alla caccia del Leicester, primo in classifica. E per la Lazio un turno che pare un po' più morbido, un po' più abbordabile. Quindi vediamo che succede, aspettiamo la Juventus la settimana prossima, giocherà con il Bayern di Monaco, anche lì favoriti sono gli altri, ma chissà mai che la Juventus possa fare il colpo. Tanto la Juventus giocherà domani, lo ricordiamo, in campionato contro il Bologna nell'anticipo. Allora, grazie Carlo, tutto materiale per tutti i convocati a partire dalle 14. Una delle notizie che vi abbiamo dato nella prima parte della trasmissione è questo annuncio di Matteo Salvini, una grande manifestazione di liberazione da Renzi, dal governo Renzi, per il 25 aprile. Carlo Smuraglia, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi adesso, intanto la saluto, ci fermiamo, sentiamo cosa succede sulle strade e poi vogliamo sentire la vostra opinione. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la revisione della spesa è stata un parziale fallimento, lo dice la Corte dei Conti che avverte sulla flessibilità, spazi di manovra esauriti e cresce l'incertezza. Oggi tra l'altro il Consiglio europeo si discute anche di temi economici, ma dominano la scena la Brexit, ossia l'ipotesi di uscita della Gran Bretagna dall'Unione e i migranti. Mentre l'Italia si prepara a un forte aumento degli sbarchi, ci vogliono 50.000 posti in più, dice il Viminale, preoccupazione dalle regioni. Un nuovo attentato in Turchia, altri 7 militari morti, Ankara accusa i curdi per l'autobomba di ieri, ma loro replicano. Noi non c'entriamo. E poi c'è la notizia che riguarda le ultime dichiarazioni del leader leghista Matteo Salvini, che stanno già facendo discutere. Da Matteo Renzi c'è un controllo dei media, delle scuole, dei tribunali, delle banche, dell'esecutivo. Sento puzza di Unione Sovietica, di regime, e convoca per il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, una grande marcia che raccolga tutti gli italiani che non vogliono vivere da schiavi. Queste sono le sue testuali parole. Abbiamo già salutato Carlo Smuraglia, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, e vogliamo una sua opinione. Ma io spero ancora, non credo che sia soltanto una battuta infelice e di cattivo gusto, di cui spero che non ci sia conferma, perché dovrei pensare addirittura a una provocazione. Il 25 aprile è una festa nazionale, dichiarata festa nazionale per legge, quindi è una festa di tutti gli italiani. È una festa che dovrebbe unire nel segno del ricordo della resistenza, dei caduti della resistenza, della Costituzione e così via. Quindi una giornata destinata a questo. Volerla utilizzare per altri scopi, per di più addirittura divisivi, come sono sempre quelli politici, dove ci sono contrasti, eccetera, in un giorno che dovrebbe essere una festa unitaria del paese che ricorda le sue pagine migliori e se ne vanta e ne è orgoglioso, è addirittura un segno, credo, di assoluta insensibilità, se non addirittura, ripeto, di una provocazione, perché non vedo il senso di una manifestazione in un giorno in cui si sa che ci sono manifestazioni in tutta Italia per appunto festeggiare il 25 aprile, a partire da quella che ci sarà a Milano. Non ha nessun senso proclamare manifestazioni diverse, a meno che non si voglia disturbare e togliere valore ad una giornata che invece resta per tutti noi di estrema importanza. Avete intenzione di muovervi in qualche modo, Smuraglia, per evitare che avvenga questa manifestazione? Adesso vedremo se la notizia, dopo le prime primi dati, dopo le prime battute, siamo abituati anche alle battute. Vogliamo vedere se sarà confermata e poi decideremo quello che deve essere fatto. Naturalmente nei modi che sono consentiti e che ci sono connaturali. La ringrazio, grazie a Carlo Smuraglia, presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani. Ci occupiamo di un'altra vicenda di cronaca adesso. All'alba di questa mattina è stata smantellata dai carabinieri una filiazione dell'Andrangheta attiva in Lombardia. Adriana Fracchi ha sentito il colonnello Giuseppe Lagalaga, il comandante provinciale dei carabinieri. 28 sono i provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Vi sono arresti in tutta Italia, 5 sono le province della Lombardia interessate. Abbiamo arresti a Milano, Monza, Pavia, Como, Varese, ma abbiamo arresti anche in Calabria e in Puglia. Si tratta di una pericolosa organizzazione criminale che imperversava sul territorio imponendo il pizzo ai commercianti, commettendo rapine per approvvigionarsi ulteriori contante, effettuava anche usura a persone in difficoltà economica, ma era dedita anche e soprattutto al traffico internazionale di stupefacenti. Stupefacente che arrivava sulla piazza della Lombardia, da dove poi veniva smerciata in tutta Italia, con particolare riferimento alla Puglia e alla Calabria. Questa è un prosieguo di altre operazioni che erano state fatte sin dal 2010 qui in Lombardia, sempre dai carabinieri, e che hanno portato all'arresto di ben 157 persone. È appena arrivato un comunicato congiunto dell'Associazione Nazionale dei Comuni e delle Regioni sul tema dell'accoglienza dei profughi. Come vi abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione, il Viminale starebbe ipotizzando, proprio perché presumibilmente con la primavera gli sbarchi riprenderanno, starebbe ipotizzando l'organizzazione di altri 50.000 posti per l'accoglienza. Le Regioni e i Comuni dicono, insomma, c'è bisogno che lo trattiate con noi, e ovviamente ci sarà chi protesterà. Di questo dovremo riuscire a parlare tra poco col presidente dell'Associazione Nazionale Comuni, Piero Fassino, per capire come la vede. Si chiederanno evidentemente anche eventualmente altri stanziamenti. Intanto ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano c'è la relazione all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. La revisione della spesa, si legge, è stata un parziale fallimento sulla flessibilità, spazi di manovra esauriti, e cresce l'incertezza sull'economia. Intanto l'OCSE abbassa le previsioni di crescita per il 2016. E oggi il Consiglio europeo, si discute anche di temi economici, ma dominano la scena la Brexit, ossia l'ipotesi di uscita della Gran Bretagna dall'Unione, e i migranti, mentre l'Italia si prepara a far fronte ad un forte aumento degli sbarchi. Ci vogliono 50.000 posti in più, dice il Viminale. Una nuova inchiesta per corruzione, sono scattate perquisizioni a Roma per funzionari del comune, imprenditori e professionisti. Salvini dice c'è un regime, convoca una manifestazione di liberazione dal governo per il 25 aprile. Interviene anche l'ANPI, come avete sentito pochi istanti fa, e dice è una provocazione. La borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Prima di tutto, e prima di parlare d'altro, un aggiornamento sull'inchiesta della quale vi abbiamo parlato la prima parte della trasmissione, e che riguarda appunto Roma, l'inchiesta per corruzione che riguarda Roma. Abbiamo parlato di una decina di perquisizioni, c'erano molti pochi dettagli. Adesso sta emergendo qualcosa. L'imprenditore costruttore romano Domenico Bonifaci è indagato nell'ambito di quest'inchiesta, da quanto si apprende, da quanto riferiscono le agenzie. Complessivamente sarebbero 11 le persone indagate: un funzionario, un dipendente di un dipartimento di Roma Capitale, tre professionisti e sei soggetti del gruppo Bonifaci, tra cui appunto lo stesso imprenditore. Anche qua vedremo come evolverà questa vicenda. Ma torniamo ad occuparci della notizia con la quale abbiamo aperto invece, ossia quello che dice la Corte dei Conti all'apertura dell'anno giudiziario. La revisione della spesa è stato un parziale fallimento e avverte, tra le altre cose, che sulla flessibilità gli spazi di manovra, quantomeno per il 2016, sono sostanzialmente esauriti. Dino Pesolo, del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Una tua analisi su quello che dice e che ha scritto Squitieri, il presidente della Corte dei Conti, nella sua relazione di oggi. Ma da un lato il quadro dell'economia, che naturalmente nella analisi della Corte dei Conti non può che trovare conferma con quello che vanno ormai prevedendo tutti, un po' tutti, dall'OCSE al Fondo Monetario, alla Commissione Europea. Vale a dire, l'economia italiana è in lenta, faticosa ripresa all'interno di uno scenario internazionale che è molto molto complicato. Quindi questo è il primo problema. All'interno di questo scenario, ti aggiungo, scusami Dino, ti interrompo solamente per aggiungere, per i nostri ascoltatori che si fossero messi in ascolto solo adesso, che proprio oggi, tra l'altro, la stessa OCSE, l'Organizzazione di Parigi, ha rivisto a ribasso le stime di crescita, non solamente sull'Italia, ma anche per esempio sulla Germania e su tutto il pianeta, complici le tensioni internazionali, l'andamento del prezzo del greggio, insomma tutto quello di cui abbiamo parlato, il rallentamento della Cina, e la rivista a ribasso di uno 0,4% per il 2016, quindi non di poco, portandoli a una crescita dell'1% ipotizzata per il 2016. Prego. Certo, lo scenario internazionale è questo, ci aggiungerei pure il contesto tutto europeo in cui c'è un'inflazione bassissima, siamo quasi in deflazione, nonostante la cura da cavallo di iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea. Dunque ci sono degli elementi che, messi tutti insieme, fanno ritenere che il 2016 sia un anno complicato. All'interno di questo quadro la Corte dei Conti ci dice sostanzialmente questo: il governo deve mettere mano con urgenza, se vogliamo, alla spesa pubblica. In che modo? Attraverso una revisione strutturale della spesa. Non si parla nella relazione della Corte dei Conti di tagli lineari, fortunatamente, ma di riqualificazione della spesa che passi attraverso, e questa è una cosa fondamentale, il rilancio della spesa per investimenti. Se lo ricorda Squitieri, la spesa per investimenti è stata quella più sacrificata negli anni della crisi e senza investimenti l'economia non riparte. È un quadro che vale per l'Italia e tanto più per l'Europa. Qui è un richiamo al governo perché subito, con già col documento di economia e finanza di metà aprile, metta mano a questa questo capitolo che, come sappiamo, tra un commissario che esce, uno che entra, uno che si insedia, e ancora non si sa in che direzione si potrà andare. Dino, ci sembra di capire anche dalla relazione di Squitieri che la Corte dei Conti intraveda pochi margini per un ulteriore taglio della spesa e più che altro per una riqualificazione, come dicevi tu. Esatto, perché la spesa corrente al netto degli interessi è stata tagliata. Se noi guardiamo gli anni che hanno preceduto la grande crisi e quelli immediatamente successivi, la spesa corrente è stata tagliata. Allora, il problema di fondo qual è? Individuare all'interno degli 820 miliardi di spesa quegli spazi che comunque continuano ad esserci in termini di recupero di efficienza, di lotta agli sprechi, alle duplicazioni, e ce n'è da intervenire, e trovare in tal modo le risorse per rilanciare gli investimenti e soprattutto per ridurre la pressione fiscale, altro elemento fondamentale. Quindi questo è il quadro con il quale si deve confrontare l'esecutivo, e perdonami Dino, e chiudiamo qua. Dal lato della flessibilità, cosa ci dice la Corte dei Conti? Cioè, è anche una notazione che ha un sapore quasi politico, visto il confronto di Renzi con Bruxelles? Sì, ci dice sostanzialmente che i margini di flessibilità per il 2016 sono già stati richiesti tutti, e questo più o meno lo si sapeva. Il governo ha fatto ricorso a una flessibilità che nel totale vale 0,8% del PIL, e sono investimenti e riforme sostanzialmente, sulla quale flessibilità ancora è atteso il verdetto, tra virgolette, di Bruxelles, che arriverà a maggio. E poi c'è un ulteriore 0,2% del PIL, che equivale più o meno a 3,3 miliardi, che riguarda la cosiddetta clausola migranti e sicurezza, cioè per i costi che dobbiamo sostenere per l'ondata migratoria andrebbero valutati con flessibilità. Quindi fa un punto di PIL. Se la Commissione ci accorderà, non penso tutto, credo che più o meno si orienteranno attorno allo 0,7, e quello sarà il margine. Dopodiché l'anno prossimo non ce n'è più, quindi bisognerà fare operazioni di riqualificazione della spesa, appunto, investimenti produttivi e attenzione a rilanciare la domanda interna anche attraverso una opportuna riduzione delle tasse. Grazie Dino Pesole del Sole 24 Ore. È in corso, forse è appena finito, al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro sulle sorti di Meridiana. Abbiamo in linea Franco Nasso della Filt CGIL. Buongiorno Nasso e benvenuto. Sono però Nino Cortorillo, sono il segretario nazionale. Nino Cortorillo. Mi occupo del trasporto aereo. Perfetto, abbiamo avuto un po' di confusione. Allora, ci racconti un po' che cosa sta emergendo e che cosa è emerso da questo incontro. Ma questo è il primo incontro che avviene dopo moltissimi mesi, avente oggetto la crisi e la vertenza meridiana. Quello che ci è stato prospettato è l'esito, quindi il memorandum understanding raggiunto tra Qatar Airways e il gruppo Alisarda, che prevede la costituzione di una nuova società. Sì. E l'ingresso al 49% nel capitale di Qatar. E ci sembra di aver capito 900 esuberi? Esatto, io do alcune linee molto molto sintetici. Noi diamo un giudizio molto positivo della scelta del partner industriale. Senza l'arrivo di un partner importante e che agisce nel mercato globale come Qatar, Meridiana non avrebbe futuro. Qatar però assorbe l'attuale attività con, diciamo, la fotografia dell'attuale esubero, e quindi richiede che la nuova società parta con 900 persone in meno. È chiaro che è un livello che noi stimiamo intorno al 50% dell'attuale forza lavoro, ed è un livello che ha una oggettiva insostenibilità sociale elevatissima. Secondo lei, molto brutalmente, secondo lei a quanto si potrebbe arrivare? Cioè, quale potrebbe essere il punto di caduta nella trattativa? Intendo che ci saranno probabilmente dei prepensionamenti, gente che può uscire volontariamente, eccetera, eccetera. Quale può essere il punto di caduta, secondo lei, se ce n'è uno? Io non so se esiste un sindacalista in grado di dire dopo la prima riunione quale potrebbe essere il punto di caduta, però ripeto, 900 persone non è neanche immaginabile che si possa fare un accordo. Va fatta la trattativa, va capito quali sono gli esuberi, dove sono, quali sono gli strumenti di attenuazione, ne cito uno fra tutti, la possibilità di fare part time. C'è moltissimo ancora da valutare, discutere, perché Qatar prende la fotografia dell'attività attuale, sì. Non si parla di incremento, non si parla di sviluppo. Ci è stato detto l'interesse ad agire nel mercato cargo, sì. Il mercato cargo ovviamente assorbirebbe fondamentalmente la componente lavoro dei piloti, sì. Quindi noi dobbiamo sviluppare questa trattativa, certo. Oggi senta, mi dice solo questo, dato che siamo quasi in chiusura, il prossimo incontro quando è? Il prossimo incontro è martedì mattina. Martedì noi abbiamo mattina. Dato disponibilità a trattare, abbiamo dato disponibilità anche a definire un nuovo contratto di lavoro. Serve trattativa, serve tempo, la vogliamo sviluppare tutta quanta. I sì e i no arriveranno ovviamente dopo aver svolto la trattativa. La ringrazio, grazie per essere stato con noi. Adesso c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.